2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate su Facebook, Twitter con la nostra posta elettronica. Potete andare sul nostro sito internet per riascoltare tutte le nostre puntate, ma come sempre vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Se lo fate attraverso una delle piattaforme più note come iTunes, TuneIn Radio, oppure ci sono un sacco di applicazioni per smartphone che vi permettono di abbonarvi ai servizi podcast, beh, in quel modo potrete scaricare in automatico la nostra puntata, averla a disposizione sul vostro terminale in qualsiasi momento. La notizia più importante di questa settimana riguarda Facebook e un accordo che è stato fatto con, per il momento, 9 editori. Comunque è l'inizio di un cambiamento molto importante. Allora, molte persone che usano Facebook, e stiamo parlando di 1,5 miliardi di persone nel mondo, usano Facebook anche per informarsi, perché cliccano su un link che magari un amico pubblica, e quindi è anche un nuovo modo di informarsi, non è una scelta fatta su un sito di informazione, quindi io vado su un sito di informazione e poi scelgo magari l'argomento che mi interessa di più, ma è una scelta indotta da gli amici che leggono notizie e le condividono. Questo naturalmente succede in generale sui social network, ma su Facebook questo fenomeno ha una dimensione molto importante. Allora, per rendere migliore la fruizione delle notizie su smartphone, in modo particolare avendo uno schermo più piccolo, bisogna lavorare un po' di più per rendere migliore la fruizione delle notizie sullo smartphone. Per il momento è solo su iPhone questa novità, ma arriverà presto anche per Android e per Windows. Allora, per offrire un servizio migliore anche agli editori, Facebook ha creato una nuova modalità di erogazione delle notizie che si chiama Instant Articles, quindi articoli istantanei. Ha già fatto accordi con New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC, The Atlantic, il Guardian e poi BBC News e i due tedeschi Spiegel e Bild. In questo modo, come funziona? Quando un utente posta un link ad una notizia prodotta da questi editori, dai giornalisti che lavorano per questi editori, prima di tutto sarà più veloce l'accesso, quindi io clicco e molto velocemente, si chiama Instant Articles, mica per niente. Poi ci saranno contenuti aggiuntivi, quindi multimedialità, che verrà prodotta da questi editori solo per la fruizione all'interno di Facebook, ma soprattutto si rimarrà all'interno di Facebook, quindi viene confermata questa dinamica, cioè che Facebook è una rete internet all'interno della rete internet, quindi molte cose, molti utenti le fanno tutte all'interno di Facebook, e anche la fruizione delle notizie. Questa cosa la dice lunga su come si sta trasformando il mondo dell'informazione, il giornalismo. Questa è una cosa che i giornalisti dovrebbero studiare per comprendere bene come sta cambiando il mondo, ma come stanno cambiando anche le modalità con cui la gente si informa e come sta cambiando anche Facebook. Comunque è l'inizio di una serie di accordi che molto probabilmente arriveranno anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché non ci saranno solo questi 9 editori. Che cosa avranno in cambio gli editori? Beh, la possibilità di vendere pubblicità direttamente oppure utilizzare il network di Facebook. Ovviamente Facebook guadagna nel fatto che la gente rimane per più tempo su Facebook, e soprattutto, visto che questa è una offerta pensata per gli smartphone, passano più tempo soprattutto su smartphone. Adesso le altre notizie in breve della settimana. Digital News. La prima notizia riguarda la telefonia mobile. So che è riduttivo dire telefonia mobile oggi, ma per farci capire. Allora, la russa Vimpelcom, proprietaria di Wind, e la cinese Hutchison Whampoa, che controlla Tre Italia, hanno confermato che sono in corso trattative per fondere i due operatori mobili italiani. L'unione di Tre e Wind darebbe forma al primo operatore mobile italiano. Oggi, su poco più di 94 milioni di linee, quindi di SIM attive in Italia, il 32,2% sono di TIM, il 27,1% di Vodafone, Wind è al 22,9%, 3 al 10,7%. Queste due aziende insieme supererebbero TIM di circa un punto e mezzo. Poi, per completare il quadro, vi dico che Poste Mobile è al 3,5%, mentre tutti gli altri operatori mobili virtuali, cioè quelli che non hanno una propria rete, una propria infrastruttura, ma offrono comunque il servizio di telefonia mobile, come Fastweb, Lika Mobile, Coop Voce, Tiscali, eccetera, eccetera, si spartiscono il rimanente 3,6% del mercato. Digital News. Attenzione, perché c'è chi dice, e io sono d'accordo con queste persone, che con l'unione di Tre e Wind ci sarà meno competizione, quindi le tariffe potrebbero, se non proprio subire un aumento, sicuramente una frenata nella corsa al ribasso, cosa che già stiamo vedendo in effetti. A proposito di operatori mobili, soprattutto TIM e Vodafone stanno spingendo molto sulla copertura 4G. Vodafone ha annunciato in settimana di aver raggiunto una copertura dell'85% della popolazione e il 21% del traffico dati passa oggi oramai su rete 4G. Ovviamente il numero di utenti e terminali non è il 21% del totale, perché questi utenti generano una quantità di dati superiori alla media, quindi sono meno, ma generano il 21% del traffico dati. Digital News. Da questa settimana tutti gli utenti Skype possono usare Skype Translator, provatelo perché è molto interessante, l'abbiamo provato anche a 2024. L'apertura del servizio non prevede più la registrazione, basta scaricare l'app da Windows Store ed è sufficiente che l'utente che chiama abbia Windows 8.1 o Windows 10, una delle versioni di prova di Windows 10. Le lingue supportate finora da Skype Translator sono 4, cioè l'inglese, l'italiano, il cinese e lo spagnolo. Microsoft ha reso disponibile sia per Android che per Windows, sia per smartphone che per PC Windows, un'app molto interessante che si chiama Hyperlapse. Allora, per fare degli ottimi, perché funziona molto bene, me ne hanno già parlato molto bene più di una persona, i timelapse, cioè che cosa sono i timelapse? Significa compattare velocizzando un video di alcuni minuti. Ci sono molte applicazioni che fanno questo, ma il risultato molte volte non è un granché. Invece Hyperlapse, che si chiama esattamente come lo stesso servizio di Instagram, funziona particolarmente bene. Digital News. Tanto successo stanno avendo i servizi in streaming audio, ma tanto fragile è ancora il loro business. Il numero uno del settore, Spotify, chiuderà il 2014 con ricavi di circa 1 miliardo di euro, in aumento del 45% rispetto all'esercizio precedente, quindi la dice lunga su quanto stanno crescendo questi servizi, le perdite di Spotify sono di 165 milioni di euro, in aumento rispetto ai 90 milioni del 2013. Digital News. Secondo i dati AudiWeb, in marzo sono stati 28,5 milioni di italiani che si sono collegati ad internet almeno una volta nel mese. Nel giorno medio il dato è di 21,5 milioni di utenti, di cui oltre 17 milioni da terminale mobile. Un'ultima notizia riguarda la Cina, che ha annunciato un piano di investimenti per estendere e potenziare la copertura internet entro il 2020. Verranno investiti 323 miliardi di dollari, ripeto, 323 miliardi di dollari, con l'obiettivo di portare online tutta la popolazione. Ripeto anche questo perché fa abbastanza impressione. L'obiettivo è di portare online tutta la popolazione cinese. Più tardi nel corso di questa puntata parleremo di turismo e internet, di big data, di reputazione online e turismo. Però a proposito di banda larga, abbiamo poco fa sentito la notizia della Cina. A proposito di banda larga, il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso di Telecom Italia e ha dunque confermato una multa da 103,7 milioni di euro che l'antitrust aveva dato a Telecom Italia nel maggio 2013 per abuso di posizione dominante. Il ricorso di Telecom era stato fatto contro una sentenza del TAR che già in primo grado aveva confermato la sanzione. Allora, la cosa interessante è l'ambito nel quale è avvenuto l'abuso di posizione dominante, cioè nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso alla rete a banda larga. presentare questa denuncia erano stati gli operatori alternativi Wind, Fastweb, Vodafone, BT Italia e l'Associazione Italiana Internet Provider. Il Consiglio di Stato ha anche condannato Telecom al pagamento delle spese legali per 32.000 euro. Allora, di fatto questi operatori lamentavano l'abuso di posizione dominante, cioè una serie di freni all'accesso alla rete a banda larga. Io sono un operatore alternativo, voglio offrire un servizio a un mio cliente e secondo questa sentenza Telecom abusava della propria posizione dominante in varie modalità, magari rallentando i tempi. È esperienza di molti nostri ascoltatori che ci hanno scritto più volte dicendo: ah, ma io mi sono rivolto al tal operatore, ma poi il tal operatore non è riuscito a offrirmi quel servizio. Il risultato è questo. Continuiamo a parlare di questo tra poco, parleremo di banda larga, di piani anche del governo, perché siamo in attesa di sapere che cosa il governo farà per mettere in pratica quello che è stato approvato il 3 marzo. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Abbiamo commentato poco fa la notizia che ha chiuso questa settimana, questa lunga settimana anche dal punto di vista della progetto banda larga italiano. C'è stato un dibattito molto acceso. Dicevo, la notizia che il Consiglio di Stato ha confermato questa multa piuttosto pesante di 103,7 milioni di euro che l'antitrust aveva dato a Telecom Italia per abuso di posizione dominante. Quindi di fatto questo è stato anche un danno al paese, perché si è rallentata la diffusione della banda larga. Allora, se questo è il mercato, com'è possibile difendere il mercato, come stanno facendo molti, anche molti miei colleghi giornalisti, dicendo che bisogna affidare al mercato, alle imprese private, cioè di fatto poi a Telecom Italia, lo sviluppo della banda larga? Finora il mercato ha lavorato male e infatti siamo ultimi nelle classifiche europee di diffusione e velocità di internet. Quindi questo è un motivo tale per cui è invece giusto appoggiare tutte le iniziative che vedremo quando saranno rese ufficiali, tutte le iniziative che prevedono invece una mano pubblica molto forte e molto importante per la diffusione della banda larga, della banda ultra larga e della fibra ottica in Italia. Non c'è nulla di più liberista di questo disegno. Lo Stato fa le infrastrutture, fa la piazza, nella piazza poi ci vanno le bancarelle che si fanno concorrenza. Quello è il mercato. Allora, siamo però ancora in attesa dei decreti attuativi del piano banda ultra larga che il governo ha approvato il 3 marzo, quindi insomma. Allora, sono giorni cruciali, ci dicono fonti di Palazzo Chigi e dei ministeri coinvolti, quindi abbiamo fiducia. Avrete probabilmente letto negli ultimi giorni del possibile coinvolgimento anche di Enel e di Terna, che potrebbero essere fra le società, oltre a Metroweb, che poseranno nuova fibra ottica per costruire una parte della rete d'accesso ad internet, quella per i prossimi anni, per il futuro. Terna potrebbe affiancare alle dorsali elettriche anche cavi in fibra ottica, mentre Enel è particolarmente interessata a collegare in fibra tutti i contatori per un telecontrollo più efficace di quello che avviene oggi. In entrambi i casi queste società poserebbero fibra ottica spenta, cioè costruirebbero una rete che poi affitterebbero agli operatori di telecomunicazioni che si fanno concorrenza. Tra l'altro, a proposito di questo dibattito, c'è una notizia, diciamo, delle ultime ore che un ruolo molto importante in questo progetto, che dovrebbe vedere la luce a breve, lo potrebbe avere anche A2A, che è una importante multi-utility del nord Italia e sicuramente ha le carte in regola per partecipare a questo grande progetto. cosa sta succedendo? Dobbiamo essere ottimisti o pessimisti? Ne abbiamo parlato con Stefano Quintarelli, che è un deputato di Scelta Civica, nonché un grande esperto della rete internet, sempre attento al mercato. Abbiamo fatto due chiacchiere con Stefano Quintarelli proprio su questo tema. Beh, diciamo intanto che è una cosa molto positiva il fatto che ci sia un piano, perché era da anni, molti anni, che non c'era un piano in questa direzione. Questo dimostra una sensibilità del governo a questi temi. Che sia ambizioso o meno, beh, il livello di ambizione è sempre una scelta politica, la politica è l'arte del possibile, quindi è la cosa migliore che si poteva fare in questi frangenti, in questo contesto, con le regole europee, con gli interessi dei vari operatori coinvolti, via dicendo. Quindi è sicuramente una mediazione, però è una buona mediazione. Riusciremo, oltre ad avere i decreti attuativi o qualsiasi altro provvedimento che serva poi a concretizzare questi obiettivi, ma poi a farla questa rete o ad ampliare la banda larga in Italia? Beh, diciamo, dal punto di vista della banda larga la copertura è già molto estesa adesso. Qui questo è il piano per la banda ultra larga, quindi stiamo parlando di collegamenti in fibra il più vicino possibile alla sede d'utente. Il piano previsto premia infatti la tempestività di esecuzione e la vicinanza della fibra alla sede d'utente, cioè, detto in altri termini, fiber to the home è meglio che fiber to the cab. Questo è quindi come criterio generale di valutazione, però poi naturalmente questo va modulato a seconda delle diverse realtà. E la risposta è sì, avverrà perché è stato fatto un grande lavoro di coordinamento tra i fondi che hanno a disposizione tutte le regioni. Noi sappiamo sempre, ci lamentiamo spesso del fatto che i fondi europei non vengono utilizzati, e quindi noi abbiamo questi fondi che potremmo usare ma che poi in qualche modo rendiamo all'Europa. Ecco, questo qui invece è stata fatta una grande opera di coordinamento in modo tale effettivamente da usare questi fondi, anche perché un investimento di questo genere non è come dover fare una mega autostrada nuova, una linea ferroviaria che richiede molti anni tra permessi, autorizzazioni, progettazioni, eccetera. Qui si tratta di interventi molto veloci, quindi è un modo molto veloce per scaricare sul tessuto economico i finanziamenti europei, per cui c'è un grande interesse per due ragioni. Il primo è usare i fondi, il secondo perché sono fondi che vengono utilizzati molto in fretta e quindi entrano in fretta nell'economia. Quindi a prescindere dalle valutazioni strategiche in tema dell'importanza del digitale, eccetera, c'è un fatto proprio molto keynesiano di scavare e mettere giù dei fili per chiuderli, che è una cosa che si scarica immediatamente sull'economia. I fondi ci sono, il coordinamento è stato fatto, il piano c'è e adesso siamo ai tempi di cucina. Nell'attesa di vedere questi decreti attuativi c'è un dibattito e si sono formati di fatto due grandi partiti, quello di alcuni operatori che puntano su una tecnologia che si chiama vectoring e comunque vogliono portare la fibra solo fino agli armadi di strada per continuare a utilizzare il rame, e c'è invece, come pare sia anche l'orientamento del governo, come tu stesso hai sottolineato, che dice no, bisogna cercare di portare la fibra invece fino alle case o ai palazzi, perché quello è il futuro. Sì. Tu che cosa ne pensi? Allora, chiaramente nella fibra non si muovono gli elettroni ma i fotoni. I fotoni non hanno massa, non ci sono fenomeni accessori di interferenze, attriti tra gli elettroni e quindi riscaldamento dei fili e via dicendo, e quindi le performance che si possono ottenere dipendono solo dagli apparati che si mettono agli estremi e non dalla linea. In questo modo la fibra ha una capacità sostanzialmente infinita, la capacità della fibra aumenta con lo sviluppo dell'elettronica, in quanto basta cambiare solo gli apparati agli estremi, un po' come se per ampliare l'autostrada bastasse cambiare i caselli. Quindi non c'è dubbio che la fibra è l'endgame, cioè il gioco finale. Poi è chiaro, alcuni soggetti, e fanno benissimo, perché voglio dire, un'azienda, e se io fossi al loro posto farei lo stesso, un'azienda ha il dovere di tutelare gli azionisti e i propri interessi, quindi è chiaro che chi oggi ha fatto la propria posizione strategica basata sul rame cerca di mantenere il rame più a lungo possibile e di spremere il rame più a lungo possibile, e certamente la tecnologia sta andando nella direzione, visto che questo chiaramente è un fenomeno globale, c'è dietro tutta un'attività di ricerca che supporta il fatto di riuscire a spremere più banda possibile dal rame, però dei limiti fisici ci sono sempre al rame, per quello che dicevo prima. Nella fattispecie, nel rame un cavo elettrico percorso da una corrente variabile, insomma, produce delle interferenze sui cavi vicini, adesso sto molto semplificando, e quindi questo genera un problema. Quando io ho all'interno di un armadio, di un operatore, di un armadio per strada, di quelli della rete per strada, ho due apparati di due operatori diversi, di fatto i due apparati si interferiscono. Allora è possibile ridurre le interferenze analizzandole, prevenendole, insomma algoritmicamente gestendole, ma solo se l'apparato è lo stesso, solo se è della stessa marca. Non esiste uno standard per far apparare, quindi il vectoring è possibile, dà degli effetti, ma solo limitatamente al fatto che se si usano degli apparati dello stesso produttore, in quanto non esiste uno standard per far dialogare e comunicare questa prevenzione delle interferenze tra apparati di produttori diversi, e siamo molto lontani da arrivare ad avere uno standard di questo genere, per cui io credo che alla fine diciamo, per i tempi del piano e per le previsioni del governo appunto sui tempi di implementazione, si tenderà naturalmente a preferire la fibra ottica. Allora, qui abbiamo parlato di infrastruttura, poi sull'infrastruttura ci devono passare i servizi. La pubblica amministrazione, quindi poi anche il Parlamento, perché adesso abbiamo parlato molto del governo, cosa sta facendo per creare nuovi servizi? Già ce ne sono, perché, come dire, l'esempio del 730 online è uno degli esempi, ma cosa si sta facendo? Beh, intanto bisogna capire, l'esempio del 730 online è una cosa tutto sommato relativamente semplice, perché è limitato all'interno di una sola amministrazione. Tutti noi, quando abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione, dobbiamo interagire con pubbliche amministrazioni diverse, andare in comune a prendere un certificato, ecco, e portarlo in un altro ufficio. L'informazione che noi preleviamo da un database, allora io scherzo sempre dicendo che la pubblica amministrazione fa integrazione applicativa usando dei funzionari di input-output, e il mezzo trasmissivo non è una rete, ma è la persona che prende le ferie, il cittadino che prende le ferie per poter fare questa integrazione applicativa. Allora, come faccio a far parlare tra di loro questi sistemi? E le amministrazioni devono cooperare. La complessità della pubblica amministrazione è molti ordini di grandezza superiori a quella di un'azienda, quindi i problemi sono molto complessi, perché ogni pubblica amministrazione interagisce con centinaia di altre, e quindi vanno previsti i meccanismi per fare questo. Pensiamo solo al tema delle notifiche. Le notifiche, esistono una dozzina di tipi di notifiche diverse, con garanzie diverse per la persona che deve essere notificata, procedure diverse, e hanno tutto il loro senso giuridico, quindi è veramente un tema molto complesso ogni volta che si mette mano a questo. E il coordinamento è una cosa molto difficile. Noi abbiamo l'articolo 117,r della Costituzione, che stabilisce che spetta allo Stato il coordinamento informatico e statistico dei dati, ma non dei processi. Questo andava bene quando i sistemi erano disconnessi, e quindi ci mettevamo d'accordo sul fatto che il luogo di residenza ce l'ha l'anagrafe, che il codice fiscale te lo dà il MEF, e così ci standardizziamo sui dati. Però adesso abbiamo bisogno, se vogliamo evitare che l'integrazione applicativa sia fatta dal cittadino con i funzionari di input-output, ma siano i due sistemi che si parlano attraverso delle API, delle system call, delle chiamate, se vogliamo fare questo dobbiamo coordinare anche l'interoperabilità dei sistemi, e questa cosa nella Costituzione non c'era. C'era il coordinamento dei dati, e questo era stato interpretato nel modo per cui lo Stato poteva coordinare i dati, punto, e non altro. Adesso il Parlamento, un mese e mezzo fa, abbiamo approvato nella riforma costituzionale un emendamento di questo passaggio della Costituzione, dando quindi la possibilità di coordinare, oltre ai dati, anche i processi e via dicendo. In questo modo sarà possibile cominciare a far dialogare informaticamente le pubbliche amministrazioni, e non a farle dialogare attraverso l'unico supporto che non richiede coordinamento, che era la carta del cittadino che camminava. Questo qui è sicuramente un passo avanti. Quanto tempo ci vorrà? Ci vorrà il tempo di... Adesso, diciamo, il testo ormai dovrebbe essere definitivo, quello uscito dalla Camera, andare al Senato, approvato, deve tornare indietro, ritornare. Insomma, abbiamo questo tema della navetta, no? Avanti e indietro. Probabilmente ci dovrà essere un referendum confermativo di tutta la riforma. E anche questa è una cosa molto diversa dalle aziende. In un'azienda uno decide e fa, qui invece si deve trovare un punto di sintesi, si devono conciliare molte istanze, e i processi sono lunghissimi, e quindi una cosa che in un'azienda si decide nel giro di 3 giorni, nello Stato ci si mette un anno. In questo caso ci si metterà anche più di un anno, perché appunto ci sono diversi passaggi più un referendum. Sempre a proposito di banda larga, di fibra ottica, che cosa può fare una pubblica amministrazione a livello locale? Abbiamo fatto una interessante chiacchierata con Alvaro Canciani, che è il direttore del servizio informatico del Comune di Novara. Ci sono tanti esempi in Italia, quello del Comune di Novara è uno dei tanti, ma non tantissimi, dove una pubblica amministrazione ha approfittato di lavori negli ultimi anni per posare anche fibra ottica. Una volta che questa infrastruttura c'è, può essere messa al servizio sia della pubblica amministrazione, sia di tutta la macchina dello Stato locale, quindi le scuole, le biblioteche, le varie sedi del comune, ma può essere messa a disposizione anche di alcuni operatori che portano connettività ad internet alle aziende, con tra l'altro un guadagno da parte del comune. Quindi non è un investimento come molti altri che viene fatto dalla pubblica amministrazione senza un ritorno economico diretto e immediato. Sentiamo che cosa è stato fatto e che cosa è possibile fare per una pubblica amministrazione. Un comune di Novara gestisce già da una decina d'anni un'infrastruttura in fibra ottica di proprietà comunale, gestita dai tecnici del servizio ICT del comune, che oggi raggiunge circa 10 dorsali per complessivi 160 km di fibra ottica. Grazie a convenzioni anche con altri enti come l'università, l'ospedale, la ASL, il tribunale, la questura, sono stati messi in rete tutti gli edifici pubblici della città. Questo perché la parte pubblica può essere di diretta competenza del comune stesso. Per quanto riguarda invece cittadini e imprese, il comune ha, con delle apposite convenzioni, preso degli accordi con degli operatori di telefonia locali, ma anche degli spin-off, quindi delle piccole aziende che stanno nascendo, che hanno la possibilità di portare servizi e larga banda alle imprese e ai cittadini, cosa che è vietata ai comuni per la normativa vigente. Quindi questi piccoli operatori riescono oggi a coprire delle nicchie di mercato e delle aree della città che ai grossi operatori, per motivi economici, perché il calcolo che fanno di rientro degli investimenti fatti è tale da non rendere per questi operatori interessante quel utente finale, quindi loro invece, tramite maggiore attenzione, ricerca puntuale di finanziamenti quali voucher che il decreto Sblocca Italia dà alle piccole aziende che si rivolgono alla larga banda, riescono a coprire queste piccole aziende, piccole anche grosse, stiamo coprendo delle ditte delle quali non faccio il nome, comunque sono anche multinazionali alcune di queste, con dei servizi a larga banda e anche servizi di hosting, di housing, di cloud o di VoIP che possono essere erogati direttamente da queste piccole aziende che stanno nascendo e stanno crescendo a vista d'occhio grazie a una numerosa serie di collegamenti fatti sull'infrastruttura del comune che affitta alle aziende, a questi piccoli operatori, la fibra spenta, e questi piccoli operatori in cambio investono e fanno estendere la fibra che resta comunque di proprietà del comune. Quindi le nuove dorsali, le nuove sbracci che vengono realizzati restano e tornano ad essere di proprietà comunale per ulteriori sviluppi della rete. Quindi ci sono delle piccole aziende che danno un servizio utilissimo per aziende, anche per i cittadini? Qualche cittadino sì, abbiamo raggiunto dei condomini dove chiaramente lì la concentrazione deve essere tale da favorevole alla anche, anche alla piccola azienda, perché portiamo la fibra direttamente a casa degli utenti, non rame, quindi andiamo su terminazioni direttamente in fibra ottica che vanno a terminare dall'altra parte sulla rete regionale, sul nodo regionale Topics in questo caso, dove ci sono un mix di tutti gli operatori presenti in Piemonte. Quindi con un'infrastruttura pubblica in fibra ottica alcuni operatori locali riescono a portare connettività internet alle aziende, ai cittadini, e quindi danno un servizio molto utile e coprono dei territori che non sono coperti dai grandi operatori che ragionano su logiche sicuramente diverse. Senta, il comune su questa infrastruttura, naturalmente questa è un'infrastruttura che ha creato e realizzato per una propria utilità, certo, ma poi diventa anche una sorta di business. Sicuramente il comune riesce a fatturare, a fare fatture attive, quindi è un servizio rilevante a IVA anche per il comune, quindi facciamo fatture agli operatori innanzitutto per l'affitto della fibra spenta, ma anche di servizi alle altre pubbliche amministrazioni alle quali possiamo erogare servizi tra pubbliche amministrazioni, quindi la provincia, l'ASL, l'ospedale, l'università stessa ci danno comunque dei fondi in cambio dei servizi di connettività che noi garantiamo tra le loro sedi. Senta, di che velocità stiamo parlando? Ma la velocità punto a punto all'interno della rete è sull'ordine del gigabit, mentre la distribuzione poi è intorno ai 100 megabit. Per la didattica scolastica, ad esempio a Novara, stiamo distribuendo un giga di banda a ogni singola scuola, gratuita per 15 anni. E questo è un servizio alla cittadinanza, alle aziende, investimenti pubblici che poi vengono messi a disposizione del mercato. Adesso ci facciamo una domanda che ci stiamo facendo nelle ultime settimane, nelle ultime puntate di 2024, ma della banda di cui stiamo parlando, visto che stiamo parlando di velocità che vanno oltre i 100 megabit in prospettiva sul territorio, che cosa ce ne facciamo di questa banda? Stiamo parlando con alcune aziende sul territorio, anzi vi invito a scriverci a 2024@radio24.it, magari suggerendoci anche aziende bandivore che usano molta banda, per capire a cosa serve tutta questa banda. Allora, questa settimana è con noi Alexander Stewart, che è il CIO di Danieli. Il CIO è il Chief Information Officer, quindi il responsabile delle infrastrutture informatiche. Danieli è una grande azienda, uno dei principali fornitori al mondo di macchine e impianti per l'industria siderurgica. Ha più di 11.000 persone che lavorano in una dozzina di paesi nel mondo, quindi un grande player internazionale in questo settore. Abbiamo parlato con Alexander Stewart di quello che è necessario a proposito di banda larga all'interno di una grande azienda e soprattutto che cosa se ne fa una grande azienda di tanta banda. Per noi assolutamente la connettività è assolutamente fondamentale per noi ed è importante per garantire il nostro business. Intanto le posso dire che noi abbiamo come rete interna una banda intorno ai 10 giga che permette ai nostri stabilimenti, ai nostri uffici di rimanere connessi, e mentre verso il mondo esterno abbiamo un collegamento di 200 mega MPLS per garantire la connessione con tutto il mondo esterno. Trasportiamo N tera di dati mensilmente, abbiamo grosse mole di dati in termini di disegni e altre informazioni che devono essere condivise per poter operare sui nostri processi. Ecco, che cosa ci fate? Questi disegni che cosa sono e soprattutto come usate internet per far funzionare l'azienda? Beh, adesso la capacità di sfruttare internet per far funzionare l'azienda sono N gli obiettivi che abbiamo. Sicuramente noi abbiamo una grossa attività di progettazione all'interno della nostra azienda, quindi la progettazione e l'ingegneria dei nostri impianti, e abbiamo uffici di progettazione che risiedono in vari paesi in giro per il mondo. Quindi questi uffici devono lavorare insieme per disegnare i prodotti finiti, e pertanto c'è un grosso scambio di disegni tra i vari progettisti che lavorano sugli stessi progetti, che sono multinazionali. Quindi sicuramente l'aspetto progettazione per noi è fondamentale. Un progetto di questo genere quanto può pesare in termini proprio di grandezza del file? Parliamo di i nostri file dei disegni sono di svariati giga, più o meno stiamo parlando di 4-5 tera al mese di spostamenti di disegni, quindi stiamo parlando di dimensioni piuttosto grandi. Voi avete sedi sparse in tutto il mondo. L'aspetto della cosiddetta collaborazione, che è un tema che salta fuori spesso quando si discute della digitalizzazione dei processi, del lavoro in team, anche su sedi appunto che sono distribuite sul territorio, come lo avete affrontato, come lo state affrontando concretamente? Allora, noi crediamo molto nella comunicazione e nella collaborazione. In un'azienda che è sparsa in giro per il mondo, quindi con distanza fisica ma anche distanza culturale, lei si può immaginare che ogni paese ha la propria cultura, che spesso sono molto diverse tra di loro. Beh, noi tramite la tecnologia stiamo aiutando la comunicazione e la collaborazione, e la tecnologia aiuta anche a parlare una lingua in comune, quindi tramite videoconferenze, tramite aree di collaborazione dove ci si può scambiare documenti o progetti e quant'altro, o anche tramite l'utilizzo di piattaforme social interne che accelerano molto le prese delle decisioni, la condivisione delle soluzioni e delle informazioni. E quindi stiamo investendo molto su questi aspetti tecnologici e i risultati sono assolutamente ottimi. È vero, oggigiorno le aziende più potenti al mondo sono quelli che sono agili, quelli che sono capaci di adattarsi al mercato, all'evoluzione più rapidamente. Non siamo più nell'era dove le aziende grandi erano quelle potenti, quindi l'agilità diventa un fattore molto importante per la competitività. E vediamo come la comunicazione e la collaborazione stanno cambiando il modo in cui il mondo lavora, è sempre più importante. Quindi ribadisco, per noi la comunicazione e la collaborazione è fondamentale. Se abbiamo una banda, un'architettura, un'infrastruttura che ci permette di sfruttare questi servizi, allora anche noi riusciremo a rimanere agili e competitivi. Se l'infrastruttura non supporta questi servizi, non funzionano e pertanto perdiamo opportunità. E quindi senza grande capacità di banda un'azienda del genere non potrebbe essere competitiva nel mondo, non potrebbe proprio operare. Questo è 2024, siete all'ascolto della versione podcast del nostro programma. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Ci fermiamo per pochi secondi, riprendiamo subito dopo. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Adesso parliamo di turismo, ogni tanto lo facciamo sia perché questa è un'industria molto importante per il nostro paese, dovrebbe diventarlo sempre di più, ma anche perché il mondo del turismo è stato fortemente coinvolto nella rivoluzione digitale, un settore che è stato ha tratto sicuramente beneficio dalla rete internet, ma molte dinamiche sono cambiate, sono destinate a cambiare ulteriormente. Parlo sia degli operatori, ma anche di tutti noi che una volta all'anno, purtroppo c'è anche chi non riesce nemmeno una volta all'anno, ma ogni tanto siamo turisti, ci trasformiamo in turisti, oppure molti italiani sono anche ogni settimana dei viaggiatori per affari e quindi il nostro rapporto con alberghi, con aeroplani, treni, l'automobile, tutti i servizi connessi all'automobile quando ci spostiamo si sono spostati in alcuni casi in gran parte, in altri in buona parte, in alcuni in piccola parte, comunque su internet. Le cose sono cambiate molto. Vogliamo parlare di turismo, di quello che sta succedendo, di quello che succederà. Mirko Lalli è uno dei fondatori di Travel Appeal, benvenuto a 2024. Grazie Enrico. Voi vi occupate di turismo, poi entriamo dentro al servizio, cerchiamo di capire che cosa fate, certo. Qual è la vostra idea, però visto che stiamo parlando di turismo digitale, vorrei capire da te, dal tuo punto di vista, cosa sta succedendo, al di là del fatto che molti dei nostri ascoltatori sanno che biglietti sia aerei o del treno, di qualsiasi altra cosa, si comprano oramai quasi solo esclusivamente su internet. Devo dire che le agenzie di viaggio hanno ancora un ruolo nonostante internet, però insomma sappiamo da esperienza comune che molto del turismo si è spostato su internet. Però cosa sta succedendo e che cosa succederà anche nei prossimi anni? Beh, sta succedendo un fenomeno che è direttamente frutto del digitale di internet e sta ormai succedendo da alcuni anni. Anzi, il mondo del turismo è il primo che è stato in qualche modo sconvolto dall'arrivo di internet. Gli albergatori, tutte le persone che lavorano sul turismo si sono accorti prima di altri settori che qualcosa stava cambiando, perché il loro turista tipo, il loro cliente stava cambiando nelle scelte, stava cambiando nei metodi d'acquisto e stava cambiando anche come modalità di viaggio. Chi parla di turismo dice i turisti non esistono più, oggi parliamo di viaggiatori, è ovviamente uno slogan, sì, ma è esattamente, se tu pensi alla parola turismo e a tutti i concetti negativi che si porta dietro, un ristorante turistico, una località turistica, c'è qualcosa che anche a livello di mentalità sta scattando in grandissime fasce di popolazione. Alcuni dati. C'è una ricerca di Expedia che dice che circa il 40%, il 37% in realtà, di tutti i soldi dell'e-commerce mondiale sono travel dollar, cioè sono soldi spesi nel settore del turismo, che è una cifra impressionante. Quindi il futuro del turismo è già digitale, se consideriamo le transazioni, ed è soprattutto digitale se consideriamo dove le persone scelgono. Ti cito un'altra ricerca, la ricerca Google for Travel, l'ultima, dice che quasi l'80% delle persone decide, sommando i vari comportamenti, sostanzialmente online. Cosa vuol dire online? Vuol dire l'evoluzione del passaparola attraverso le reti sociali, vuol dire le recensioni e la reputation. So che sei critico, ne parliamo dopo. No, sono... è esagerato, poi ne parliamo, però... Sì, hai toccato un punto interessante. Sì. E decide online soprattutto perché trova online quell'offerta di nicchia che una volta non riusciva a comunicare con il proprio pubblico di riferimento, perché ormai le persone vogliono scegliere e in qualche modo personalizzare l'esperienza turistica, e c'è un'altra grandissima tendenza che è quella che ad esempio giustifica il successo incredibile di Airbnb. Non so se probabilmente è abbastanza noto, Airbnb sta crescendo a ritmi vertiginosi, l'Italia è il terzo mercato al mondo per Airbnb. Addirittura? Terzo mercato al mondo. Ecco, ricordiamo che Airbnb è questo sito internet che mette in collegamento chi offre soluzioni per passare una notte in una città, in campagna, cioè chi vuole affittare una stanza o addirittura un appartamento intero con... uso il termine turista, però non solo, viaggiatori di lavoro, viaggiatori. Sì, in realtà sì, esatto, è esattamente così. Tu affitti un appartamento, un monolocale, una stanza direttamente dai locali, e la grande tendenza è live like a local, cioè io voglio vivere come il locale, non voglio andare a fare il turista, voglio andare in quella destinazione e viverla esattamente come fanno i locali, non andare nei luoghi turistici, andare nei ristoranti dove mangiano i locali, che è un po' una cosa che abbiamo sempre fatto, se ci pensi, di andare a scegliere i posti. Certo, però in alcune zone del mondo molto difficile, perché sto parlando di una tendenza, quindi in divenire, sto parlando di un segmento che sta crescendo e che si riferisce sostanzialmente al mondo occidentale, ancora esistono ampissime possibilità di mercato verso ad esempio l'Estremo Oriente. Il Far East, i cinesi, i giapponesi ancora viaggiano come viaggiavamo noi 30 anni fa. Quindi stavi dicendo una cosa su Airbnb, ti ho interrotto per spiegare, per ricordare che cos'è Airbnb. La grande tendenza, dicevo, di Airbnb è che evidenzia un cambiamento di mentalità, che è quello che non si vuole visitare un posto come turisti, ma viverlo come locali. Ok, quello che stavi dicendo. Viverlo come locali, ed è molto interessante, perché si aprono delle prospettive anche verso le piccolissime destinazioni, che prendono consapevolezza che questi nuovi viaggiatori vanno lì proprio per vivere come loro, e non perché ci sono monumenti particolari o cose da vedere interessanti. Senti, poi arriviamo a Travel Appeal, ma è tutto collegato. Creando un po' di suspense, però sono alcune premesse interessanti e anche utili per introdurci in questo mondo che molti, insomma, si sono accorti sta cambiando molto radicalmente. Ti faccio una domanda sul sistema delle prenotazioni, che oramai, soprattutto nel settore alberghiero, e diciamo che l'albergo è comunque una parte importante del mondo turistico, è dominato dagli Stati Uniti, dagli americani. Allora, se noi consideriamo un business legato alle prenotazioni fatto 100, fino a qualche anno fa questo 100 rimaneva tutto in Italia, perché il sistema di prenotazione, al di là di network internazionali legati alle agenzie per i professionisti, insomma, rimaneva quasi tutto in Italia. Oggi una buona parte della transazione viene gestita da questi siti americani, Airbnb è americano, quindi anche qui gli americani hanno un ruolo importante. È una se guardiamo al turismo in generale, una piccola parte sulla quale non riusciamo più a tornare indietro e a riguadagnare, e quindi dobbiamo guardare ad altre opportunità, ad altro tipo di business, o in qualche modo tu pensi che si possa trasformare nuovamente anche questo aspetto? Allora, questo è un fatto. Abbiamo perso, tu considera che la prima OTA, l'Online Travel Agency, al mondo è nata in Italia, ed è Venere. La prima al mondo, che poi dopo è stata acquistata ed ormai è diventata americana. Sì, sì. C'è un grandissimo gruppo che è il proprietario di Booking.com, che si chiama Priceline, che che si sta spartendo il segmento delle intermediazioni con gli albergatori, e stanno facendo di più in due direzioni. Dal lato degli albergatori e degli operatori del settore stanno offrendo una suite di strumenti per far sì di fidelizzare l'albergatore e poter gestire sempre in maniera più diretta e intermediata, dal loro punto di vista, le offerte della filiera turistica. Dal lato del turista, Booking sta facendo però una cosa micidiale, cioè sta sostituendo Google nella mente dei potenziali viaggiatori come motore di ricerca. Molto spesso sento persone che per cercare un hotel su una destinazione non vanno su Google, come mi aspetterei, o sul sito della destinazione, ma vanno direttamente su Booking. E questo è molto più radicale, perché cambi un comportamento e poi è difficilissimo tornare indietro. Il fatto è, Booking porta una grande visibilità. Si mangia, questa visita viene pagata in commissioni che oscillano tra il 18%, 15%, 18%, 20%, 30%, dipende dalle destinazioni. Quindi quando io acquisto una stanza d'albergo, una notte in albergo tramite Booking nell'albergo Miramare in Italia, un 20% va al sito americano. Il settore del turismo è da sempre stato storicamente intermediato da qualcuno, sì. Solo che prima magari c'era il tour operator, l'agenzia di viaggio, e non era neanche ben chiaro che fetta si prendessero dell'intermediazione. Sì. Con Booking è molto chiaro, che tu hai un contratto albergatore. C'è da dire che abbiamo fatto una stima un paio di anni fa alla BTO, che è questo evento sul turismo che facciamo a Firenze ogni anno, che si chiama By Tourism Online, e con Rodolfo Braggio, un professore della Bocconi, e avevamo stimato tra i 2 miliardi e mezzo e i 3 miliardi annui che se ne vanno fuori dall'Italia in intermediazioni. Pensate un po'. Su questo io ci sto riflettendo. In realtà, quanto costerebbe la visibilità che dà Booking agli albergatori se dovessero loro, con le loro forze, farsi le campagne su Google, promuovere l'hotel? Quindi è non un è tema detto complicato. Che sia molto complicato. Certo, noi stiamo affrontandolo proprio molto lievemente. Certo è che conosco alcuni casi che gestiscono sostanzialmente il 90% delle prenotazioni tramite Booking, e questo è abbastanza pericoloso, perché potrebbe decidere da un giorno all'altro di alzarle le commissioni, e quindi tu sei in mano ad un intermediario che pilota il tuo questo business. Questo vale effettivamente, hai fatto bene a dirlo, ma vale effettivamente per tutti i business. Anche se io faccio bulloni e lavoro solo per un'azienda, se poi quell'azienda non va bene o decide di rivolgersi a un altro, ho dei problemi. Travel Appeal che cosa fa? Travel Appeal è nata, siamo giovanissimi, è nata 14 mesi fa dentro H-Farm, l'incubatore che è vicino a Treviso, e sostanzialmente facciamo due cose. Da un lato gestiamo i cosiddetti big data del mondo del turismo. Big data è una parola che sto cercando di eliminare, perché ne parlano tutti, è un po' troppo a sproposito. Diciamo, gestite la grande quantità di informazioni che girano su internet legate al turismo. Legate alle destinazioni, che sono o i territori o le singole strutture turistiche, e poi ti spiego meglio. Sì. E poi facciamo progetti di digital transformation per il mondo del travel, cioè aiutiamo le aziende del settore turistico, culturale, artistico e così via, quindi la filiera turistica allargata, ad andare verso il mondo del digitale. Il nostro core business è quello di raccogliere tutti i dati delle destinazioni, analizzarli e fornire agli operatori, che sono sia il singolo ristoratore o albergatore, sia l'ente del turismo, il consorzio, la grande catena, informazioni sulle tendenze, su quello che sta succedendo, per prendere decisioni migliori. Tra queste informazioni c'è anche la reputation, per questo ne ho parlato prima. Sì. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, riprendiamo subito proprio dai dati. 2024. Il turismo, internet, i dati, i big data, i tanti dati che sono sulla rete internet. È con noi Mirko Lalli, che è fondatore di Travel Appeal. Ma i dati di cui abbiamo parlato, di cui parlate voi, da dove li prendete? Beh, questi dati li prendiamo sostanzialmente da tutti i canali digitali dove questi dati stanno disaggregati. Ad esempio, ti faccio l'esempio delle conversazioni social, quindi le persone parlano su una destinazione e ne parlano su Twitter, su Facebook, ne parlano postando un video su YouTube, ne parlano quindi in maniera atomica e disaggregata. Raccogliamo tutto, cerchiamo di capire come ne parlano, di cosa parlano, li organizziamo in segmenti di analisi per tematiche, per territori, per destinazioni e forniamo questi dati a chi, vendendoli ovviamente, a chi possono essere utili per prendere decisioni strategiche su come investire sulla destinazione, che cosa, di cosa parlano. Pensa ad anche un semplice albergatore, cosa potrebbe fare attraverso i suoi social media se sapesse di cosa parlano i turisti che sono sul suo territorio oggi, in questo istante. Sì. Sono tutte cose che una persona smart riesce anche in qualche modo a raccogliere, ma non in maniera organizzata, non per cluster di i cinesi parlano di e così via. Quindi forniamo i dati che normalmente sono frammentati in maniera coerente ed aggregata. Sì. Cioè tu mi vuoi dire, faccio un esempio che mi viene in mente, noi riusciamo, cioè voi riuscite a capire ad esempio se persone interessate ad una destinazione X magari in collina parlano di gite in bicicletta, al che l'albergatore oppure il consorzio che si occupa di quella collina dice vabbè, organizziamo, mettiamo le biciclette gratuite per fare delle passeggiate. Perfetto. In bicicletta, cosa che magari si fa già ma si va a caso, cioè dice bravissimo, ma io metto le biciclette che secondo me funziona. Alla domanda a cosa servono i big data, la risposta che do sempre io è a decidere meglio. Sì, tu hai, infatti, semplicemente cito spesso una affermazione che mi piace molto, che è data driven decision, decisioni basate sui dati e non stomach driven decision, no? Basate, esatto, sullo stomaco, sulle... magari l'intuito in certi casi è pure superiore, per carità, però il fatto di avere delle evidenze dovute ai dati, beh, in realtà molto spesso semplifica le decisioni, anche perché possono essere messe in evidenza delle cose a cui non si era pensato. Certo, certo. Ti faccio un prego, esempio su questo. Sì. Abbiamo fatto un'indagine, ne hanno parlato un po' tutti, un paio di mesi fa, su 10 città italiane, analizzando gli hotel di queste 10 città, la ristorazione e in generale i servizi turistici. Ne hanno parlato tutti perché in maniera inaspettata al primo posto è venuto Catania. E all'ultimo posto della classifica è venuta Milano, cosa che nessuno si era aspettato da una classifica del genere. Quindi o vi siete sbagliati? Allora, in realtà ci possiamo essere anche sbagliati, per carità, abbiamo aggregato una serie di cose. Sì. Però come mai è venuta una cosa del genere? Intanto c'è un dato di percezione, quello che a Catania da un certo punto di vista ti sorprende, a Milano tu lo pretendi, che è la prima città dal punto di vista sia di turisti, di qualità dei turisti, non come numero, sia come posizionamento europeo tra le città italiane, come metropoli italiana. E ad esempio su Milano la prima criticità che viene fuori, la più grande criticità, ecco, se io ti chiedessi qual è secondo te la più grande criticità evidenziata analizzando tutte le conversazioni, le recensioni su TripAdvisor, Booking, Expedia, analizzando tutto, non saprei. Il wifi. Invece io pensavo che il wifi a Milano fosse dato per scontato negli alberghi. Ecco, bravissimo. Ah. Esattamente questo. Incredibile, eh? Esattamente questo. La più grande criticità all'ultimissimo posto in assoluto è il wifi, che molto spesso è a pagamento negli hotel. Sì. Gli hotel, poi a Milano si pretende che vada molto bene il wifi. Bravissimo. Essendo una città piena di fibra. Bravissimo. E invece non va bene. Pazzesco. E ormai il wifi è una di quelle commodity che i turisti internazionali considerano come l'acqua calda, cioè certo, ci deve essere. Sì, c'è il bagno che deve essere pulito e ci deve essere il wifi. Un albergatore, nostro cliente, mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere: se il wifi non funziona, la camera diventa brutta. Senti, ma quello che fate voi non è quello che fanno un sacco di agenzie che studiano la reputazione online di tanti servizi? Quindi se la faccio per chi produce i salami, la posso fare anche per gli albergatori, no? Ah, certo. Esistono anche un paio di società al mondo che la fanno come noi sono nostri competitor. Sì, non siamo pazzi a aver fatto una cosa che esiste già. Allora, in realtà l'abbiamo fatta per alcuni motivi. Primo, perché molto spesso chi fa una cosa first to market, che arriva prima sul mercato, deve fare un grande sforzo per evangelizzare il mercato verso la necessità di quel prodotto. Sì. E i grandi sforzi di evangelizzazione non diventano necessariamente miglioramenti sul prodotto stesso. L'esempio che faccio sempre è che Google, quando è arrivato sul mercato, era il 18° motore di ricerca, c'erano 18 prima di lui, che piano piano, ora io so che è un paragone alto, non voglio dire che voglio fare come Google, sì. Però in realtà abbiamo individuato quali sono i punti di forza e di debolezza dei nostri competitor e abbiamo voluto fare una cosa. Perché chi l'analizza per il mercato dei salami non può farlo per il mercato del turismo? Perché le aziende cercano centri di competenza che possono dargli anche soluzioni e consigli specifici, non solo dati. Quindi noi diamo i dati, il nostro algoritmo li sintetizza e gli diamo anche in automatico, ovviamente agli albergatori, le azioni conseguenti. Quindi non gli diamo solo un analytics della loro reputation, sì, ma gli diciamo esattamente cosa fare, una to-do list giornaliera, sì, di cosa fare per migliorare la situazione. Ah, tutto automatico. E questo non esisteva prima. Quanto costa? Ma costa, cioè, dammi degli ordini di idee. No, è molto chiaro il nostro pricing. $10,000, 10 euro. L'albergatore paga al mese, sì, canone mensile, si può abbonare online, paga al mese il costo di una notte nella sua camera più economica. Quindi l'hotel piccolo pagherà €50, l'hotel grande ne pagherà 100. Tutto automatico. Ah, quindi avete usato il costo della camera come benchmark, come pricing, come punto di riferimento. Non funziona, lo dico agli albergatori all'ascolto, se mettono una camera su Booking a €8 prendiamo la media annuale. Sì, ti vorrei riassumere. Io sono un albergatore, che cosa mi date? E soprattutto, se sono un albergatore che non fa molto, che non è molto presente su internet, magari ho un sito internet ma neanche tanto bello, non beh, faccio sei il social... nostro cliente perfetto. Ah, addirittura? Noi abbiamo un po' ampliato il concetto di reputation. Reputation in senso tradizionale è come sono percepito dal mercato e analizzo le recensioni su di me. In realtà noi analizziamo questo, che ovviamente è importante. Analizziamo però anche quanto tu albergatore sei bravo a comunicare, quindi analizziamo il tuo sito internet in maniera totalmente automatica, i tuoi canali social e tutti i contenuti che tu pubblichi sia sul sito internet che sui canali social, valutandone l'efficacia e l'efficacia per il tuo pubblico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non ti diamo solo consigli relativamente alle tue recensioni o al prodotto. Attenzione, hai ricevuto una recensione negativa da Mirko sulle camere. Ok, oppure il tempo che intercorre tra una recensione e la tua risposta è troppo lungo, sì, così via. Ma ti diamo anche consigli su come migliorare il sito internet, SEO, tecnologia, link social e come migliorare i tuoi canali social. Ecco, molto spesso gli albergatori hanno delle persone, perché si sta rendendo conto il mondo del turismo, che gestiscono il mondo social. Questo è uno strumento che possono dare in mano a queste persone e valutarne anche il lavoro. Certo. Perché misura e ti dà un punteggio. Se tu risolvi un problema, il tuo punteggio aumenta. Sì. Allora, siete una startup. Sì. Nel settore turismo, visto che si dice spesso che ci sono un sacco di opportunità, è più facile trovare capitali per finanziare una startup? Allora, fare una startup è sempre un gran caos, soprattutto in Italia. Gli ordini di grandezza in Italia sono un'altra cosa rispetto al mondo delle startup fuori dall'Italia. Sì. Anzi, non gli ordini di grandezza, gli ordini di piccolezza. Sì, esatto. Però dire che noi abbiamo avuto un grande investimento da parte di H-Farm e che ci ha permesso di realizzare in soli 12 mesi tutta quella cosa che vi ho raccontato. Si può dire di quanto? Ma non ho nessun problema. H-Farm, di fatto noi siamo un pezzo di H-Farm per quanto riguarda la gestione del mondo del travel. H-Farm ha investito quasi €500,000 che in una startup è una bella cifra. Ecco, sì, è assolutamente una bella cifra. Abbiamo avuto, adesso stiamo chiudendo, quindi su questo magari le cifre ancora non le dico per scaramanzia, un deal importante con Unicredit che sta entrando in società, quindi comprerà il 10% di Travel Appeal, sì, e sta vendendo il prodotto ai loro clienti albergatori. Stanno già vendendo in alcune province e andremo sul nazionale a breve. Questo lo dice lunga su come cambiano le banche, come cercano di cambiare le banche. E infatti, perché Unicredit ha comprato un pezzo di Travel Appeal? perché è un percorso lungo, accidentato e non ci arriveremo domani, ma l'obiettivo finale è inserire il nostro score, quindi il punteggio nostro finale che riassume la bontà dell'azienda, un po' come il clout per le persone, sì. La bontà dell'azienda. Clout non è che lo conoscano tutti, però diciamo è un punteggio della... è un punteggio di quanto tu sei bravo aggregando, sia come comunichi, sia quanto come sei percepito. Noi l'abbiamo chiamato Travel Appeal Index Score, tra i loro parametri bancari di valutazione di rating creditizio aziendale. E questa è una rivoluzione copernicana, perché tu non... Bellissimo, mi piace. È sempre big data. Assolutamente. Sì. È win-win, perché se l'azienda va bene, la banca se ne accorge subito, riesce a capire meglio le dinamiche, si rifletteranno sul bilancio un anno dopo e così via. Visto che la scorsa settimana abbiamo parlato di big data, ma in modo generale, gli ascoltatori riusciranno sicuramente a fare le opportune e dovute connessioni tra il vostro caso e il caso generale. Ecco, noi siamo un caso di big data per il mondo del turismo specifico. Sì, sì. 30 secondi per rispondere alla domanda. Nel mondo del turismo, visto che si dice sempre che l'Italia dovrebbe investire, insomma, c'è molta euforia, si trovano più facilmente capitali o è uguale? È esattamente la stessa cosa. Stessa cosa. Bene, grazie. Ma Mirko Lalli, in bocca al lupo. Crepi. È tutto per questa puntata, questa è la versione podcast di 2024, grazie per aver scaricato oppure ascoltato in streaming, passate parola, fate abbonare al nostro podcast anche i vostri amici e i vostri parenti. Grazie sempre ai nostri ascoltatori che ci continuano a scrivere messaggi e ci dicono mi dite come ascoltate 2024, ci sono le versioni più disparate di gente che fa attività varie in casa o fuori casa, diciamo che lo sport è una delle principali, quindi continuate a correre ascoltando, correre o fare altri tipi di sport ascoltando 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds in.